gli si trova anche il nuovo data center, che è un'infrastruttura strategica per processare tutti i dati generati ed abilitare nuovi servizi digitali anche per la mobilità. L'innovazione è la cifra di questo quartiere. Mi sono fatto l'idea che sia proprio nel suo DNA. Fa parte della sua storia e può essere anche il suo futuro. Ci sono i presupposti per sperimentare un laboratorio a cielo aperto dove riuscire a mettere a sistema reti umane, ambientali e tecnologiche insieme. C'è poi una compresenza di attori proattivi in questa parte di città che rappresentano bene quante opportunità di contaminazione ci siano tra cittadini, associazioni ed istituzioni, tanto da superare le definizioni ortodosse di processi dal basso o dall'alto. Aprendosi sulla possibilità di sperimentare, immagino un quartiere attrattivo anche alla scala sovracomunale, ma spero che il quartiere mantenga uno spirito vocato all'innovazione,